Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Il Consiglio Energia, che si è riunito giovedì scorso a Bruxelles, si è chiuso con un nulla di fatto. All'ordine del giorno c'era la discussione sulla nuova direttiva europea per l'efficienza energetica, voluta dal commissario all'energia Günther Oettinger, direttiva che però è stata respinta. Ed è la seconda volta che questo accade, dato che un precedente respingimento era già avvenuto lo scorso giugno, determinando una riduzione dei vincoli nella nuova proposta, che però evidentemente non è stata giudicata sufficiente da diversi paesi europei, ma soprattutto Inghilterra e Olanda, guidati dalla Germania, che non hanno gradito una serie di vincoli. Ne parliamo con Dario Di Santo, che è direttore di FIRE, la Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia. Buonasera Di Santo. Buonasera a tutti. Allora Dario, cosa prevedeva intanto, ecco, aiutaci a capire per sommi capi questa direttiva? Sì, beh, era una proposta abbastanza completa che si inquadrava sul piano per l'efficienza energetica pubblicato a inizio 2011 e praticamente diceva che gli Stati membri si sarebbero dovuti in qualche modo informare all'obiettivo del 20% sull'efficienza energetica, quello che era caduto come obiettivo obbligatorio, e dopodiché dava una serie di voci che erano fondamentalmente voci abbastanza logiche, tipo ad esempio fare degli audit obbligatori per le grandi aziende e trovare dei sistemi per far sì che anche le piccole residenziali potessero in qualche modo beneficiare della conoscenza dei consumi. 2. Prevedere una misura sempre più intelligente. 3. Prevedere che le grandi centrali elettriche sfruttassero il calore ora disperso, recuperando ad esempio in reti di teleriscaldamento. Quindi la cogenerazione obbligatoria praticamente. Sostanzialmente sì, possiamo tradurlo in questo modo qui. Poi prevedere una serie di inventari tipo sulla pubblica amministrazione, sugli impianti sopra 50 megawatt, eccetera. Prevedere la certificazione degli operatori di settore. E prevedere, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, una serie di obblighi come il 3% di rinnovo annuale del parco immobiliare, sì, e l'utilizzo del Green Public Procurement, ossia gli acquisti intelligenti e verdi, e un piano di azione annuale per ciascun ente sostanzialmente. Quindi, vista così, sono tutto sommato anche regole di buon senso. Di buon senso, che però sono state respinte, tra l'altro tra gli obblighi che sono stati meno graditi c'è quel 3% di cui tu parlavi di efficientamento, diciamo, della superficie degli edifici dell'amministrazione pubblica, e anche un 1,5% di riduzione obbligatoria dei consumi dei clienti finali delle grandi aziende produttrici di energia. Però tu dici, insomma, delle indicazioni abbastanza di buon senso che però sono state respinte. Allora, come mai questo respingimento? Cosa ne pensi? Ma a mio parere è stato proprio un errore di comunicazione di questa proposta di direttiva da parte della Commissione, perché normalmente le direttive come strumento prevedono un obiettivo generale e poi libertà più o meno assoluta agli Stati membri per arrivare a quell'obiettivo. Qui invece l'obiettivo generale non era un obbligo in sostanza, però c'erano poi degli obblighi specifici. E questo è stato visto male, perché è ovvio che tanti di questi piccoli obblighi, che ne so, il metering, cioè la misurazione, diciamo così, esatto, obbligatoria dei consumi, il monitoraggio dei consumi. Il monitoraggio è quasi banale in alcuni contesti. Pensiamo, nel residenziale abbiamo tutti il contatore intelligente per l'elettrico, domani ce l'avremo per il gas. In altri paesi, come quelli dell'area ex sovietica, è una cosa tutta da costruire. Quindi è chiaro che il costo di verifica di questo obiettivo è completamente differente. Stesso discorso, fare il rinnovamento del parco immobiliare è chiaro che è diverso in un paese che prevalentemente ha edifici realizzati da 60 in poi rispetto a uno come il nostro, che è pieno di edifici storici. E terzo, c'era un po' un'area di forse eccesso di richieste di rapporti di vario genere. Secondo me tutte queste cose messe insieme, mescolate con un pochino di crisi e di difficoltà, fatto sì che i nostri politici, che non sono certo statisti, nostri non solo italiani, intendo, sì, in particolare in questo caso quelli italiani erano favorevoli per una volta. Esatto, diciamo che i politici europei non abbiano gradito la proposta e l'abbiano alla fine fatta fallire, ed è un peccato. Però diciamo che ci sono state anche parecchie pressioni. Una, diciamo, delle voci che si è fatta sentire maggiormente è quella di un'associazione che si chiama Business Europe, che raccoglie varie altre associazioni industriali di livello europeo associazioni di grandi produttori di energia elettrica o di grandi consumatori di energia elettrica che, come al solito, hanno tirato fuori, come dire, hanno paventato effetti recessivi. Insomma, tu dici che ci sono delle ragioni oggettive di rigidità della direttiva per cui era difficile che venisse accettata, però contemporaneamente abbiamo così una comunicazione che dice un'altra cosa, dice no, guardate che fare efficienza energetica ci impoverisce tutti. Ma guarda, due punti. Primo punto, era quasi normale che certi soggetti avrebbero reagito in un certo modo a questa proposta di direttiva, perché comunque una buona parte di quegli obblighi di questa proposta di direttiva ricadeva su di loro. D'altra parte, a me sembra che si possa dire che se noi siamo in questo momento in un momento di difficoltà, di crisi, non è perché c'è stata una crisi finanziaria 3-4 anni fa, ma perché abbiamo avuto decenni in cui non sono state usate correttamente le risorse che noi avevamo a disposizione. La ricchezza è stata in qualche modo sperperata, vuoi per politici o classi dirigenti non adeguate, vuoi per modelli come l'outsourcing a tutti i costi che non hanno funzionato. Ed è ovvio che se io gestisco male le mie risorse, alla fine mi ritrovo in più povero. Crisi. Esattamente. Quindi personalmente ritengo che la soluzione sia cercare proprio di diciamo così, soffermarsi e puntare sull'efficienza energetica per superare la crisi, perché in Italia esistono una marea di interventi che si possono fare nei grandi consumatori come in quelli medi, come nel residenziale, a costo zero, comunque con tempi di ritorno inferiori all'anno o ai 3 anni a seconda dei settori, che pertanto non si può dire che inducono recessione, inducono solamente opportunità, fine. Grazie. Gli sprechi ci consentono di avere un'economia più solida, dando per di più lavoro a imprese italiane. Grazie Dario Di Santo. Grazie a te, buona serata a tutti. È tutto, a domani.